Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Terza puntata con il vostro passaporto radiofonico valido per l'espatrio. Anche oggi vi porteremo in giro per questo nostro piccolo pianeta, segnalandovi le migliori opportunità di studio, lavoro e impresa, pronte per essere colte ai quattro angoli del mondo. Opportunità per voi, cittadini globali. Il nostro menù odierno ci trasporta in Cina, paese che abbiamo spesso toccato negli ultimi anni con Giovani Talenti, la trasmissione che ci ha preceduto. Un paese dove le opportunità di studio e lavoro, così come pure le condizioni di approdo, stanno cambiando alla velocità della luce e non sempre fate attenzione in modo positivo. Per cui ascoltate bene quanto ci racconterà la nostra testimone della settimana, una vera esperta in fatto di risorse umane in Estremo Oriente. Tornano in toolbox le segnalazioni bimensili del Sole 24 Ore, mentre Eures ci porterà a conoscere le ultime offerte di lavoro dall'Europa. Infine, in Internet Point ci aspetta un vero e proprio classico, il tema di come fare ricerca all'estero con l'ebook scritto da un ricercatore italiano negli Stati Uniti. Generazione Mobile. Due segnalazioni settimanali per cominciare. In primis l'interessante iniziativa dell'ambasciata italiana a Berlino dal nome L'Ambasciata Incontra i Giovani, un ciclo di incontri organizzati da qui al 2018 per promuovere l'ingresso di giovani connazionali nel mondo del lavoro tedesco. Gli incontri puntano a facilitare l'accesso alla dimensione lavorativa. Tutte le info su www.ambaberlino.esteri.it. E attenzione, è stata pubblicata la graduatoria della seconda scadenza 2017 del programma Erasmus Plus, capitolo Gioventù. Approvati 143 progetti di scambi giovanili, mobilità di operatori, volontariato europeo, dialogo strutturato per un totale di 4 milioni di euro. Lo rende noto l'Agenzia Nazionale Giovani. Diverse centinaia di ragazzi che andranno fuori dai confini nazionali anche per partecipare al servizio volontario europeo. Toolbox. Toolbox di questo sabato 23 settembre ci riporta la nostra rubrica bimensile in collaborazione col Sole 24 Ore del lunedì. Oggi in studio con noi c'è Francesca Barbieri. Buon pomeriggio a voi. Francesca, allora, dopodomani sul Sole 24 Ore del lunedì, sezione lavoro e carriere, darete dei consigli molto pratici, e invito già fin d'ora ad alzare le antenne a chi è in ascolto, su come andare a lavorare per le organizzazioni internazionali, che può sembrare qualcosa di difficile, perché chiaramente parliamo di selezioni su scala o continentale per l'Europa o mondiale per altre organizzazioni, ma ci sono posti di lavoro molto interessanti, tra virgolette, in palio. Spiegaci meglio. Sì, allora, dedicheremo la copertina di lavoro e carriere alle posizioni aperte in 8 tra le principali organizzazioni internazionali. Abbiamo raccolto materiale dall'ONU, dall'UNICEF, la FAO, la BEI, la NATO, la Banca Mondiale, la Banca Centrale Europea e l'Interpol. Sono centinaia di posizioni a cui ci si può candidare e chiaramente i requisiti non sono per tutti, perché il requisito di partenza è una laurea, la conoscenza perfetta dell'inglese e in alcuni casi anche anni di esperienza alle spalle. Come candidarsi? Ci sono canali normalmente web, oppure in alcuni casi occorre anche mandare della documentazione cartacea? Ogni agenzia, ogni organizzazione ha un po' le sue modalità. Sì, allora, diciamo che ormai avviene tutto via web, quindi anche quando viene chiesto, non so, qualche elemento aggiuntivo, comunque va mandato come PDF via mail. E quindi diciamo che il consiglio è di monitorare i siti internet di queste associazioni, di vedere appunto quali figure cercano, quali sono i bandi aperti, di leggersi bene il bando e vedere che cosa bisogna inviare. Normalmente quali sono le figure un po' più cercate all'interno di queste organizzazioni internazionali? Hai detto la laurea è un requisito basico, però magari servono più certi tipi di laurea. Beh sì, certo, ad esempio l'ONU, che per tutto l'anno apre bandi per cercare figure sia per la sede centrale di New York ma anche per le varie sedi sparse per il mondo, loro hanno posizioni aperte che vanno dai funzionari degli affari economici agli esperti informatici ai project manager, e quindi, come dicevo prima, richiedono la laurea, un inglese fluente, in alcuni casi un'esperienza pregressa. Ecco, in, per, alcune posizioni sono richieste la conoscenza anche di una seconda lingua, generalmente il francese. Quello che si può, come dire, segnalare è che la selezione è sicuramente dura, perché comunque, soprattutto quando si tratta di un'organizzazione che è attiva in tutto il mondo, le candidature sono tante. Però chi riesce a superare queste selezioni poi ottiene dei contratti davvero vantaggiosi, con degli stipendi elevati e anche la possibilità di avere dei benefici di carattere fiscale o dei benefit per potersi poi trasferire in questi luoghi. Poi la durata vita delle organizzazioni internazionali, facendo una battuta, però chiaramente sono posizioni molto particolari. Tra l'altro, lo dicevi anche tu, voi fate un punto in questo numero, ma sono spesso aperte tutto l'anno, ecco, non è che ci si candida solo in questo momento. No, assolutamente no. Diciamo che soprattutto per le grandi organizzazioni come l'ONU i bandi sono continui. Ne approfitto anche, poi chiaramente parlate, immagino, dell'Unione Europea e delle varie istituzioni europee. Su questo tema, a Generazione Mobile, torneremo poi a occuparci più nel dettaglio nel corso delle prossime settimane, questo ve lo promettiamo. Vi spiegheremo come andare a lavorare all'interno dell'Unione Europea. Un'ultima battuta prima di lasciarci, Francesca: non è impossibile alla fine, insomma, farcela ad entrare in queste organizzazioni? Soprattutto occorre aspettarsi processi lunghi di selezione, con colloqui, con test scritti? Sì, beh, dipende poi da organizzazione a organizzazione, ci sono dei processi di selezione differenti, però in genere c'è una prima scrematura dei vari curricula che arrivano, poi le persone che vengono considerate interessanti vengono ricontattate, ci sono delle prove scritte, dei colloqui, insomma la selezione è impegnativa, ma i tempi comunque non sono lunghissimi. Un'ultimissima cosa: posizioni più per senior o anche per giovani che vogliono, insomma, indirizzare fin da subito la loro carriera in un ambito internazionale? Allora, diciamo che il grosso delle posizioni è per figure che hanno qualche anno di esperienza alle spalle. Ciò non toglie che anche un neolaureato possa tentare e mandare il curriculum, vedere poi come va. Il testimone. La nostra testimone di oggi ha tanto da raccontare sulle opportunità di carriera in Cina, anche perché è estremamente attiva nel settore risorse umane. E quindi preparatevi a una mezz'ora fitta di consigli utili. Buon pomeriggio, Rosanna Terminio. Buon pomeriggio. Rosanna, bentrovata innanzitutto. Tu vanti, e non è assolutamente poco, un'esperienza di oltre 10 anni in Cina nell'ambito della consulenza strategica di investimento. Ci racconti brevemente come vi sei approdata? Sì, certo. Allora, per caso, perché ho sempre voluto comunque lasciare l'Italia, che trovo un paese abbastanza immobile. Il mio sogno era quello di vivere in diversi paesi, parlare varie lingue, e posso dire di esserci riuscita. Il lavoro non è mai stato l'obiettivo, ma un mezzo per raggiungere questo sogno. Ho studiato l'ultimo anno di economia a Barcellona, dove poi sono rimasta a vivere per 7 anni, e dove ho trovato lavoro facilmente grazie alla conoscenza delle lingue per una società francese. Per una ricerca personale ho deciso di studiare un master in studi dell'Asia orientale, e questo mi ha poi portato a Shanghai nel 2008 per una delle prime società di consulenza spagnole dedicata alla Cina, che è la Secorp. Ecco, di cosa ti occupi adesso esattamente, in breve? Insieme a dei colleghi nel 2011 ho rilevato questa società e continuiamo ad offrire gli stessi servizi, che sono quelli di consulenza strategica e di supporto a 360 gradi a chi vuole fare business in Cina, con un'attenzione particolare alle dinamiche legate agli aspetti culturali e della lingua. Rosanna, tu ti occupi non solo di strategie di investimento, ma sì, anche esatto, di risorse umane. E questo è bene ricordarlo per procedere col dare informazioni preziose ai giovani in ascolto. Partiamo con gli studi. Quale carriera secondo te è imprescindibile seguire sui banchi universitari? Allora, mi sento di dire purtroppo che, essendo comunque imprescindibile uno studio universitario, non è più quello che fa la differenza, questo non solo per la Cina. Sicuramente, se l'obiettivo è la Cina, degli studi di ingegneria più conoscenze della lingua aiutano molto. In generale, per i neolaureati si richiedono anche almeno 2 anni di esperienza post laurea, almeno che la laurea non sia stata ottenuta in università cinese o con un double degree. La Cina per questo mette a disposizione anche delle borse di studio, per esempio. Perfetto, hai inquadrato benissimo i requisiti fondamentali. Ora però, quali i canali da seguire per approdare lavorativamente in Cina, oppure conviene metterci un piede fin dall'università? Esatto, come hai ben capito dalla risposta precedente, sicuramente studiare presso un'università cinese per il momento rende anche più difficile ottenere il visto di lavoro. Per quanto riguarda invece le opportunità di stage universitari, l'unico modo di farlo attualmente legalmente è quello di partecipare a un progetto di scambio tra un'università italiana, o dove si studi, e un'università cinese, questo progetto di studi richieda un'esperienza di stage avallato dall'università cinese. Ecco, per chi magari... Sempre per legge non è possibile che questo stage sia per il momento retribuito. Ah, ecco, non è retribuito. Però una cosa, per chi non dovesse venire a studiare in Cina, meglio provare a venire con un distacco da un'azienda italiana o europea, oppure ci si può candidare da qui per un'azienda cinese? Personalmente credo che le strade siano diverse. Ovviamente è possibile mandare dei curriculum a delle società di recruiting con presenza in Cina o basate in Cina, anche se sempre di più le aziende stanno contrattando persone basate già in Cina. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Rosanna Terminio, 38enne business partner per Asecorp China. Rosanna ci aiuta a districarci in un paese estremamente sfidante sotto il punto di vista delle opportunità di carriera. Lo fa con la vasta esperienza accumulata negli ultimi anni nel settore risorse umane. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. C'è un programma importante di cui parlare, si chiama China 2025. Come si inserisce? Cos'è questo progetto e come si inserisce nella guerra per i talenti in corso? È un progetto di miglioramento del livello tecnologico del sistema produttivo cinese che ha come obiettivo appunto di raggiungere questo livello nel 2025 in un panorama ancora più ampio di diventare un leader tecnologico. Quindi questo implica che ovviamente le persone che abbiano un talento molto specializzato in quei settori per cui diciamo la Cina considera come importanti per raggiungere questo livello tecnologico hanno la vita più facile diciamo nel momento in cui cercano lavoro. E questi settori sono per esempio quello dell'automobile, l'automazione, la robotica, le energie rinnovabili, nuovi materiali, aerospazio, medicina, e ci sono anche delle sovvenzioni piuttosto che agevolazioni per ottenere il visto. A proposito di visti, questo è importante, c'è una nuova normativa entrata in vigore la scorsa primavera, è stata positiva o negativa per noi occidentali? Dipende dal punto di vista, sicuramente rende le cose un po' più difficili. I talenti che sono necessari per la Cina hanno diciamo più facilità ad ottenere il visto basato in un nuovo sistema a punti. E sicuramente la conoscenza della lingua cinese, l'esperienza o il lavoro precedente sulla Cina aiutano molto. E nella email che hai inviato a Generazione Mobile @radio24.it hai fatto un interessante riassunto delle caratteristiche base che occorre possedere per puntare ad avviare una carriera in Cina. In breve ti chiedo di elencarle e a chi ascolta chiedo di drizzare le antenne. Molta flessibilità, pazienza, apertura mentale, curiosità, spirito di adattamento e, come dice Nicholas Nassim Taleb nel suo libro Antifragile, essere antifragili, cioè chi dopo un urto diventa ancora più forte è antifragile, quindi prepararsi insomma a un ambiente di lavoro non facilissimo ma sicuramente interessante. Di una cosa, Rosanna, non abbiamo parlato, le aree geografiche, solo Pechino, Shanghai o meglio puntare su città di seconda, terza fascia? Sicuramente, e soprattutto per i talenti che non rientrano in quanto abbiamo descritto prima, le aree centro-occidentali, che sono quelle che ora si stanno sviluppando, sono quelle che offrono maggiori opportunità. Le aree di Pechino, Shanghai o second and third tier city di questa zona sicuramente sono quelle magari che offrono un po' più di opportunità di vita simile all'occidentale, tra cui diciamo ristoranti eccetera eccetera. Si può ragionare sul lungo periodo quando si parla di Cina per una carriera, oppure è un paese che va visto sostanzialmente come una tappa di passaggio per poi approdare da un'altra parte? È un paese su cui costruire un futuro? Sicuramente questa deve essere più una scelta forse personale che non diciamo una strategia di carriera, però credo che sia più facile considerarlo come una opportunità più che altro per le differenze culturali che per una scelta di vita, diciamo. Ci raggiunge ora in linea Emanuela Verrecchia, professionista che per un decennio ha vissuto e lavorato in Cina, nonché curatrice di un blog Cina di frontiera. Buon pomeriggio, Emanuela. Ciao Sergio. E anche ben ritrovata, perché insomma ti conosciamo da Giovani Talenti con la tua rubrica mensile L'Ideogramma, con la quale ci hai portato per diverso tempo in Cina. E con te vorrei aprire un angolo più esperienziale. Qual è il primo impatto col mondo cinese quando vi si mette piede, Emanuela? Beh, io posso ricordare quello che è stato per me il primo impatto, che risale oramai al 2004, e ricordo un forte senso di disorientamento, un disorientamento comunque piacevole. Città immense, Shanghai ha 24 milioni di abitanti ed è grande come il Belgio. Ricordo la lingua incomprensibile, dalle insegne dei negozi alle etichette sui prodotti al supermercato, all'incomunicabilità con la gente. Però ricordo anche questo grandissimo dinamismo e queste città che non si spengono mai neanche a mezzanotte. E Emanuele, è facile integrarsi con la cultura cinese anche da un punto di vista di relazioni sociali? Credo che adattarsi sia per certi aspetti semplice, però se parliamo di integrazione il discorso cambia, perché conosco italiani che si sono anche sposati con donne cinesi e non si sentono comunque integrati. Le differenze culturali tra Oriente e Occidente sono molto forti e si sente quella contrapposizione tra le due matrici, tra i due blocchi Est ed Ovest. Ti chiedo, la comunità di expats può diventare un po' un segreto per farcela integrarsi, insomma, all'interno del paese? Sì, io penso di sì, per me è stato così. Io in 10 anni di Cina ho sempre mantenuto rapporti con la comunità italiana. All'inizio frequentavo molto di più le attività organizzate dall'istituzione italiana a Shanghai, che mi hanno anche fatto conoscere persone nuove, poi ho mantenuto i miei contatti con gli expat a livello di amicizie personali. Per il tuo blog Cina di Frontiera hai intervistato tanti italiani che hanno messo radici in Cina. Qual è il segreto per farcela, anche professionalmente soprattutto? La curiosità, la voglia di conoscere. Molto semplice, ottimo. E il tuo personale consiglio per chiudere, Emanuela? Meglio vedere la Cina come un luogo interessante dove formarsi, studiando, e poi passare oltre, o ancora un paese dove vale la pena avviare una carriera? Io ai giovani consiglio senz'altro un'esperienza di studio o di lavoro in Cina. Io l'ho fatta e ne sono stata contentissima, ne ho molto beneficiato. Però suggerisco oggi di non fermarsi più alla Cina, cioè di non guardare la Cina come un punto d'arrivo, ma come un passaggio per poi andare in altri paesi. Grazie Emanuela Averecchia, torneremo ad ascoltarti il primo sabato di ottobre con l'ideogramma qui a Generazione Mobile, e torniamo per la nostra domanda di rito a Rosanna Terminio. Primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a lavorare all'estero? Di non pensarci nemmeno, ma di andare senza dubbio. Come ha detto anche Emanuela, la curiosità e la voglia di imparare sono fondamentali anche in un, no, in un approccio di questo tipo, di esplorare e quindi provarsi all'estero, che sia in Cina o qualsiasi altro paese. E suggerisco vivamente di uscire, di andare fuori dall'Italia, esplorare e tornare o no con un bagaglio molto più ricco. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Tornano questa settimana le ultime offerte e proposte dell'Agenzia Europea per l'Impiego EURES. Ogni 2 settimane vi forniamo dritte utili per andare a lavorare in Europa. Anna Bongiovanni di EURES Italia. Buongiorno, oggi vi parliamo dell'evento che si svolgerà presso l'Università degli Studi di Teramo il 23 novembre prossimo, Career Day Polo Scientifico, organizzato anche con la collaborazione del servizio EURES della provincia di Teramo. Lo scorso anno l'evento ha visto la partecipazione di ben 41 aziende, 75 reclutatori e 950 giovani visitatori, ed ha avuto anche esiti fortemente positivi, portando a vere e proprie assunzioni di lavoro. L'evento è rivolto a studenti, dottorandi, laureati, giovani professionisti del settore delle bioscienze, agroalimentari e tecnologie ambientali, scienze e tecnologie alimentari, viticoltura ed enologia, medicina veterinaria, protezione e benessere animale e biotecnologie. Durante la giornata gli studenti e i giovani laureati incontreranno i responsabili delle risorse umane di diverse importanti aziende del settore, ciascuna delle quali avrà uno spazio espositivo dove poter accogliere i giovani visitatori, effettuare colloqui e raccogliere i curriculum vitae. L'Ateneo di Teramo attiva anche percorsi di personal branding tematici per i suoi studenti per arrivare il più preparati possibile al Career Day. Questo evento è anche un'opportunità per iniziare una carriera internazionale e verrà infatti creata una sorta di EURES Village, un villaggio del lavoro europeo, con uno spazio totalmente dedicato alla mobilità transnazionale, al fine di esplorare offerte di lavoro all'estero e incoraggiare la mobilità europea. Si prevede infatti una partecipazione numerosa dei rappresentanti EURES di diversi paesi europei, che nei loro punti informativi offriranno opportunità di lavoro e terranno inoltre i seminari Living and Working, presentando le condizioni di vita e lavoro del proprio paese, le modalità di ricerca attiva di impiego e strumenti di candidatura in lingua, ossia curriculum e cover letter. Quindi ragazzi, una pila di curriculum nello zaino e tante buone motivazioni. Vi aspettiamo numerosi giovedì 23 novembre dalle ore 9 alle 18 all'Università degli Studi di Teramo. Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di generazione mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi il nostro focus si sposta sul fare ricerca all'estero. In un libro, un giovane connazionale racconta come è andato a lavorare oltreoceano, cogliendo le enormi opportunità offerte dagli Stati Uniti. Roberto Ponciroli, autore di Dumbass Strain, nonché ingegnere nucleare presso l'Argonne National Laboratory nei pressi di Chicago. Si parte da una... I primi capitoli sono abbastanza autobiografici, cioè il percorso che mi ha portato fin qui, quindi le lauree al Politecnico di Milano, il dottorato, la frustrazione di non riuscire a trovare lavoro e poi questo nuovo inizio, questa offerta di lavoro da parte di un ente di ricerca statunitense prestigioso come Argonne National Laboratory, appunto. Mi sembra di capire, professionalmente non hai dubbi sulla bontà della scelta fatta. Ma negli Stati Uniti, soprattutto nella posizione che uno occupa in un laboratorio nazionale, quando uno diventa membro dello staff, a livello di retribuzione, di reputazione e di, non so, la possibilità di instaurare collaborazioni è veramente di un altro livello rispetto a quello che ho sperimentato in Italia. Per chiudere, un tuo consiglio a un ricercatore che magari sta pensando di trasferirsi negli Stati Uniti? Anche fosse solo per un postdoc, quindi solo per 2 anni e poi ritorno, comunque in ogni caso è un'esperienza molto molto importante. Una volta che vieni qui e vedi quello che puoi avere, quello che puoi essere, ribalta la tua prospettiva su te stesso e sulla tua professionalità. Il libro Dumbass Strain è disponibile in versione gratuita sulle maggiori piattaforme di ebooks. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, e potete pure contribuire al nostro blog che si chiama Giovani Talenti all'interno di Radio 24. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.